America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It would be wonderful if NATO and our country could get along with Russia. Right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. Donald Trump, lo avete sentito, una conferenza stampa congiunta con Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, in visita a Washington. Devo dire un incontro importante, questo perché Donald Trump ha espresso parole di apprezzamento in realtà per il patto atlantico e ha detto testuali parole, avevo detto in altre occasioni che la NATO era obsoleta. In realtà la NATO non è obsoleta, ha un suo ruolo molto importante, per esempio nella lotta al terrorismo, ma è stato nella cornice di questo incontro, di questa conferenza stampa, che Trump ha fatto le dichiarazioni più forti, quelle nei confronti della Russia, ed è quel che vi ho fatto ascoltare poco fa, una dichiarazione in cui Trump dice letteralmente: gli Stati Uniti non stanno andando d'accordo per nulla con la Russia. I rapporti sono ai livelli minimi nella nostra storia. Vedremo solo col tempo se potranno migliorare e se le cose con Vladimir Putin potranno cambiare. Ecco, devo dire, un atteggiamento così duro, soprattutto da Trump, che, se lo ricordate, appena un paio di mesi fa diceva che con Putin voleva fare la pace, voleva trovare il dialogo, voleva costruire un percorso per risolvere alcune delle principali crisi internazionali insieme. Ecco, questo atteggiamento è cambiato di 180 gradi. Ieri vi avevo accennato al fatto che questa spaccatura fra i due leader che erano percepiti come leader populisti, portatori di una bandiera che sta in qualche modo cambiando molte cose in Europa, in Italia ad esempio il Movimento 5 Stelle, la Lega Nord, in Francia Le Pen, ma anche in altri paesi, e dicevo, a un certo punto si dovrà scegliere Trump o Putin, perché a questo punto i due non vanno d'accordo e c'è veramente un divide, una divisione molto molto forte. Bene, ho messo questo messaggio anche su Twitter per capire un pochino quale potesse essere la reazione. La reazione, devo dire, l'ho avuta. Ci sono stati molti, molti messaggi che sono giusti su questo tema, e la cosa interessante è stata che sono stati molto più coloro che hanno detto di preferire Putin a Trump. Ecco, è una cosa che personalmente mi sorprende un pochino, perché in effetti Putin si è dimostrato molto spregiudicato in alcune situazioni chiave. Eppure Trump in alcuni dei tweet è finito sotto attacco, qualcuno l'ha definito un cialtrone, un altro mi ha detto, ecco, ha calato da braghe davanti ai poteri forti. In realtà Donald Trump, secondo me, non ha calato affatto le braghe, ha capito che l'interesse degli Stati Uniti d'America è in una direzione, e cioè nella direzione che porta Washington a ritrovare un minimo di incisività e di leadership nel contesto degli affari internazionali. Si è appoggiato, questo ve l'avevo già raccontato in un'altra puntata, si è appoggiato ai generali, si è appoggiato a coloro che nella sua amministrazione hanno, tra virgolette, la testa sulle spalle, non soltanto Rex Tillerson, che era ieri a Mosca, e lui stesso tra l'altro è stato il primo a dire che i rapporti con Mosca sono sui livelli minimi, e lo ha detto mentre era seduto di fianco a Lavrov, il ministro degli esteri russo. Ecco, questo per dirvi che c'è uno sforzo corale, l'America si rende conto che deve reagire quando succede qualche cosa di gravissimo come quello che è successo in Siria, e Trump di nuovo non si è tirato indietro, ha fatto, devo dire, due battute piuttosto importanti parlando di Mosca, ha detto, preferisco pensare che non sapessero nulla, che non fossero informati di questo imminente attacco chimico, preferisco pensarlo, ma non ne sono certo. E poi ha definito Bashar Assad, mentre era in conferenza stampa con Stoltenberg, un macellaio, e nel pomeriggio in un'intervista con la Fox News un animale, e poi ha aggiunto, non riesco a capire perché un leader politico come Vladimir Putin possa accompagnarsi, proteggere e seguire in qualche modo appunto un dittatore che si rivela essere un animale. Ecco, sono parole pesanti, parole che appena qualche settimana fa non ci saremmo aspettati. Ma sentiamo Tillerson dopo l'incontro a Mosca, incontro tra l'altro che ha visto a un certo punto anche la partecipazione di Putin, perché non era previsto che Putin lo incontrasse, questo ve lo avevo anche riferito ieri. Alla fine Putin è andato proprio per evitare che ci fosse questa percezione di rottura totale. Sentiamo. I expressed the view that the current state of US-Russia relations is at a low point. There is a low level of trust between our two countries. The world's two foremost nuclear powers cannot have this kind of relationship. Tillerson anticipa quello che poi avrebbe detto Trump poco dopo, cioè che le relazioni, dice, fra Stati Uniti e Russia sono a un livello molto basso, caratterizzato da una scarsa fiducia, da una fiducia minima. E allora lì ecco l'apertura, perché poi Tillerson dice: due potenze nucleari come le nostre non possono avere questo tipo di relazione. Dobbiamo collaborare e trovare un percorso di uscita. Il percorso di uscita per Washington è uno soltanto: Bashar Assad se ne deve andare. Questo lo ha ripetuto Tillerson seduto di fianco a Lavrov e ha dato delle indicazioni. Non è che se ne deve andare domani o dopodomani, ma occorre che ci sia un piano, perché Bashar Assad non può guidare la Siria nel momento in cui cerchiamo di trovare una soluzione per stabilizzare il paese. Провели переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Более двух часов встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ecco, e qui parla Lavrov, il quale attacca a sua volta gli Stati Uniti. Cioè, quando gli Stati Uniti hanno imposto un cambio di regime, per esempio in Libia con Gheddafi, per esempio con Saddam Hussein, ma per esempio anche con Milosevic, dopodiché i risultati sono stati pessimi. Quindi una linea dura anche da parte russa, ma anche da parte di Lavrov un minimo di apertura. Perché a un certo punto, dice, la Russia è aperta al dialogo e ad azioni comuni per arrivare a dei risultati in tutti i campi, e qui include non soltanto la Siria ma anche l'Ucraina. E poi ricorda come si deve essere uniti per esempio nella lotta contro il terrorismo. San Pietroburgo, ha detto, è stata colpita proprio una settimana fa, un attacco che ha fatto 14 morti, ha detto Lavrov. Insomma, sono delle prove per cercare di ricomporre una frattura, oppure ci stiamo muovendo in una direzione divergente fra le due superpotenze? Ebbene, il punto chiave resta quello di Assad. Per la Russia sarebbe molto grave in questo momento rinunciare ad appoggiare il regime del dittatore siriano, e questo lo ha confermato durante un voto alle Nazioni Unite che si è tenuto ieri pomeriggio. Il Consiglio di Sicurezza chiedeva che ci fossero informazioni, dati, trasparenza su quello che ha fatto il regime e soprattutto su quello che è successo il 4 di aprile, quando ci fu l'attacco col gas nervino contro la popolazione civile. Ebbene, Mosca, da un punto di vista pratico, non è che abbia dato grandi speranze per una eliminazione rapida di questa tensione fra superpotenze, perché ha esercitato il suo diritto di veto e ha bloccato la risoluzione. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!